Elba, 4 luglio 1967. Care Eleuterio, sono qui con il mare davanti, che è quello stesso che ieri passeggiando sulla spiaggia avevo di fianco, a sinistra quando andavo in giù, a destra nell'andare in su. Ho ancora nelle orecchie le cose di fuoco che mi hai detto sabato, e tutto per alcune spigole vive che avevo ordinato venerdì. Mi hai detto cose dure, con la faccia cattiva. Eri verde, Eleuterio. Verde come i pantaloni di tela che porto in questo momento. I pantaloni. E io penso che i pantaloni sono quell'indumento che gli uomini usano come capo di vestiario e le donne come nastro adesivo. Non dimenticare di tenere pulite le aiuole in giardino. Sempre tua. Roma. 5 luglio 1967. Incredibile, sempre mia. Il fatto che tu mi scriva delude il mio quotidiano sogno di vedovanza. Pazienza, hai perfettamente ragione. Non si litiga per alcune spigole vive, anche se alcune, tradotto in cifra, dà come risultato 75. Non si litiga per 75 spigole vive dal peso di 2 kg l'una, a lire 3.000 il chilo. Non si litiga! Si prende la donna che le ha ordinate e le si spiega il rito marinaro della sepoltura in mare, facendole interpretare la parte della salma. Ormai è fatto. Ne riparleremo sabato. Eleuterio. Poi scritto. Sto cercando di tener pulite le aiole del giardino, ma più detersivi ci butto e più i fiori appassiscono. Evidentemente non amano la pulizia. Elba. 6 luglio 1967. Care Eleuterio, gattoide, appartieni alla sottospecie. Mi dispiace per te, ma te lo devo dire. Ora lo sai, il mare davanti a me è pieno di onde. E io penso che anche lui stanotte ha dormito con i bigodini. Sono ancora scossa per gli insulti tuoi diretti a me per via delle spigole mie dirette a te. Le aiuole non si puliscono con i detersivi e nemmeno con la lucidatrice. Sempre tua. Roma, 7 luglio 1967, inspiegabile, sempre mia. Anch'io sono terribilmente scosso dalla faccenda spigole e ogni volta che ci ripenso vorrei chiamarmi Callaghan ed essere cittadino americano con possibilità di divorzio. E ogni volta che penso a te mi chiedo perché la natura combini certi scherzi. Ma come si fa a mettere nel cranio di una donna adulta un cervello da neonata? Dissestato, oltretutto. Tu parli di spigole come parlassi di pesci e basta. Ometti i particolari. Perché? Hai forse dimenticato i particolari? Io no. E sabato, quando verrò, ne parleremo a lungo. Eleuterio. Elba. 8 luglio 1967. Care Eleuterio, micione, stamattina il mare è pieno di pattini e io penso che il pattino non è altro che una barca spider. Certo che ricordo i particolari, Eleuterio. Stavamo guardando il mare dalla solita finestra del salone. Eri anche abbastanza calmo. Eleuterio, è notte. E quando è notte non si capisce più dove finisce il mare e dove comincia il cielo. Devo riconoscere che in te c'è un certo poetico cretinismo che ti differenzia da tua madre, che non ha niente di poetico. Sei un cinico, ogni volta che sono lì che sogno, tu arrivi e mi rompi i sogni, ecco. E vatti a preparare. A prepararmi? Per la gara di pesca, no? Tu sei iscritto. Ti ho iscritto io, come tutte le mogli di qui hanno iscritto i mariti. Tu devi essere impazzita. Mi hai iscritto? Sì. Io a pesca? Sì. Io che non sono riuscito a pescare niente, nemmeno in una vasca di pesci rossi. Questa volta pescherai. Pescherai 75 spigole. E come fai a stabilire che pescherò 75 spigole così, su due piedi? Non l'ho stabilito su due piedi. L'ho stabilito su due pescherecci che ho affittato ieri per te e che hanno già pescato le spigole suddette. Tu? Sì. Tu hai affittato due pescherecci? Sì, Eleuterio. 100.000 l'uno al giorno, compresa la ciurma. Pesce a parte. Pesce a parte? Sì, sì, sì. Le spigole costano 2.000 lire al chilo. Ma vincerà, Eleuterio, il primo premio. Eleuterio, quando per guardare metti guardi le orecchie, non mi piaci. Rimetti a posto gli occhi. Sentimi bene. Io non voglio pescare. Non voglio vincere. Non voglio le spigole. E non riconosco l'affitto dei due pescherecci. È chiaro? Ma non puoi, Eleuterio. Ho già dato la caparra. Sì, con i soldi che mi hai lasciato per pagare il mese di pensione. Basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta. Tu devi essere soppressa, mia cara. Adesso vedremo come, ma devi essere soppressa. Parlerò col veterinario del posto e faremo in modo di non farti soffrire. Ma si può sapere che cosa hai in quella specie di capoccia? Eleuterio, come ti permetti di insultare la mia testa? Sei un bruto e un ingrato. Volevo farti vincere il primo premio, ecco. Una canna da pesca. No. Sì, invece, una canna da pesca completa di verme. Per questo ti ho comprato una barca, per farti fingere di pescare tutto il pesce che altri hanno pescato per te ieri. Ingrato! Anche la barca? Senza motore, solo con i remi. Beh, smettila di fare il semaforo. Questo continuo passare dal giallo al verde al rosso mi disturba la vista. Scegli il tuo colore e resta su quello. Ah, ti disturba la vista? Adesso ti faccio vedere qualche cosa che ti disturberà tutta. 75 spigole, un quintale e mezzo circa, e due pescherecci da pagare, una barca. E dico, che cosa ne facciamo di tutto quel pesce? Lo mangeremo tutti insieme domani. Offri tu. Metti giù quella credenza, Eleuterio. Mettila giù. No. Aiuto, no. Mamma! Stavamo guardando il mare dalla solita finestra e all'improvviso, per qualche spigola, hai fatto il finimondo. Sei partito subito, come se non fossi arrivato. Ma adesso è un sabato nuovo e quando arriverai io farò finta di niente. Ti verrò incontro. Ciao. Bentornato, Eleuterio. C'è di là quello degli articoli sportivi. La barca che avevo comprato per te l'ho mandata a papà. Ci ho fatto mettere il motore per non farlo faticare, poverino. Questo è il conto. Gli ami, cancellali. Li ho pagati io.